perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Da grande sportivo quale sei, mi aspettavo che venissi preparatissimo sulla norma Salva Tam Tam, la squadra di basket di Castel Volturno, sì. La leggo perché non la so tutta bene, sì. Che composta da giovani immigrati non certo. Ha potuto giocare nei campionati giovanili per una questione di fisco? Beh, insomma, per una questione proprio di adeguatezza della loro struttura societaria. E però abbiamo rimediato con la legge di bilancio ancora ipotetica. Esattamente, stiamo rimediando, diciamo così. Però, guarda, ci sono diversi interventi in materia sportiva. Anche tu vedi sempre che io giro con il decreto fiscale, il decreto 148. Sono un po' preoccupata di questa cosa, però. No, perché avanti. Sempre vedi, tu poi mi fai delle domande. Allora io leggo Pilucco. Qua e là ci sono disposizioni urgenti anche nel decreto fiscale proprio in materia sportiva. Tra l'altro mi viene in mente, ci sono anche disposizioni sui diritti d'autore nel decreto 148. No, aspetta un attimo, a proposito dello sport, c'è anche un fondo ad hoc da 2 milioni di euro per tutelare le atlete in maternità. Questa è veramente bella, carina. Sì, è una cosa, tra l'altro devi sapere che c'è tutta una difficoltà di parità di tutela, di parità di diritti, e da anni si discute della parità di diritti tra le atlete professioniste e gli atleti professionisti. Anche in termini di retribuzione, come hanno fatto in Norvegia, dove i calciatori della nazionale si sono abbassati lo stipendio e tutto quello che praticamente la nazionale risparmia in quel senso è stata dirottata alle calciatrici donne. Quindi infatti con una giusta parità in questo caso. Infatti. Sai che poi parlare di calcio per me in questi giorni è particolarmente piacevole. Sì, allora chiudo subito l'argomento, anche se in realtà sono un po' preoccupata di aprire il primo di cui parleremo stamattina, perché ti lascio spazio libero totalmente a te e al nostro grande altro esperto che sta invece a Roma. Spero che non metta le dita sul naso, dentro il naso, perché Facebook lo immortalerebbe per l'eternità. Giovanni Parente, ci sei? Buongiorno, buongiorno a voi. Lo sai sì che sei in diretta Facebook anche tu stamattina. Va bene, va sei bene. Pettinato? Sei ordinato, sei composto, Giovanni. Va bene. Allora, tu e Mauro argomenterete nel miglior modo possibile sull'universo IVA. Sì, perché? Allora, cara Deborah, devi sapere che con l'insieme della legge di bilancio l'IVA ti guarda come sempre, perché sai che l'IVA ti guarda, ma si potrebbe dire che l'IVA ti salvaguardia. Perché? Perché esiste sempre, pende sul nostro capo queste clausole di salvaguardia che minacciano sempre l'aumento possibile dell'aliquota IVA. L'aumento doveva scattare dal 1 gennaio del prossimo anno, con una serie poi di aumenti, diciamo, progressivi, ma è arrivato prima il decreto legge 148, lo mostro anche ai nostri amici che ci seguono sulla pagina Facebook. Sì, ci vuole un po' la lente di ingrandimento. No, ma vi invito a leggerlo. Abbiate fede, il documento è quello vero. Allora, prima è intervenuto questo, che riduce di una quota la clausola di salvaguardia, quindi sterilizza, come si dice in gergo. Esatto. E poi adesso con il disegno di legge di bilancio si sterilizzerà il resto. Oh, c'è una cosa su cui però chiedo il conforto subito di Giovanni. In realtà non abbiamo sospeso nulla, lo stiamo procrastinando, lo stiamo rinviando. Sì, è la tecnica che stiamo adottando da alcuni anni, devo dire la verità, cioè nel senso vengono trovate coperture annuali per spostare di anno in anno in avanti il potenziale aumento delle aliquote IVA e delle accise. Mauro, fammi ricordare anche questo. Giusto. E le accise sono quelle che poi paghiamo senza accorgercene, ad esempio sul prezzo della benzina o del diesel in particolar modo, ma ci sono anche altre accise che ad esempio gravano sugli alcolici, sui tabacchi. Quindi però diciamo che questo primo intervento al decreto fiscale sterilizza una parte dell'aumento dell'IVA e delle accise per il 2018. Poi la manovra, il disegno di legge di bilancio completa l'operazione, quindi non facendo scattare nessuno degli aumenti previsti per il prossimo anno. Prendi questa mano, zingara, Allora, qua devo denunciare l'età, perché lo sai che questa canzone ha vinto Sanremo nel 1969? Nel 1969? Che è stato caspita. Il mio anno, esatto. Oh, ma è e fantastico. La cantava con Bobby Solo, Iva Zanicchi. Sì, e per questo ce l'abbiamo messa, perché stiamo parlando di Iva, abbiamo messo Iva Zanicchi. Esatto. Questo è stato il giochino? Esatto, sappi che sono i depravati della nostra redazione, Marco Lombardo, ma anche Giulia Lauricella, che ormai si è completamente assuefatta a quell'ambiente di pazzi in cui vivono e nel quale purtroppo sto anch'io. Senti, a proposito. Va bene, quindi c'è questa sottile ironia, diciamo, esatto, così, no, Iva no. Zanicchi per parlare di Iva. Iva, esatto. Adesso completeremo il tuo ragionamento, ma vogliamo anche ricordare ai nostri ascoltatori, sempre a proposito di attualità non legate alla manovra di bilancio, che è ancora un work in progress, ma finalmente l'anticipo pensionistico, Mauro, forse l'ape vede la luce. Forse, allora, l'ape volontario. Come mi è già capitato di dirti, è quasi quasi pronto. Mm-mm. E devi sapere che è sugli avverbi che poi franano le civiltà. Perché il quasi? Beh, perché però c'è la Gazzetta Ufficiale, c'è finalmente. Abbiamo che era il assente. Regolamento, lo posso mostrare anche ai nostri amici che ci seguono su Facebook. Potrebbe anche essere di nuovo il decreto fiscale, no. In realtà sono due documenti diversi, ve lo giuro. No, è il DPCM, cioè decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 4 settembre 2017, numero 150. Bravissimo. Allora, questo è il nostro riferimento, la nostra prossima Bibbia. Guarda, siccome sei coperto, lo prendo io e lo mostro qua dalla telecamera. Mostralo, poi ridammelo perché ci tengo. Guarda, ma non ho nessuna intenzione di tenerlo. Allora, quello è il regolamento sull'APE, ma allora parte l'APE volontaria, cioè la possibilità di anticipare la pensione fino a più di 3 anni per chi è prossimo all'età? No, non ancora, perché mancano gli accordi con ABI e ANIA. Protocolli con l'Associazione delle Banche Italiane e con l'Associazione delle Assicurazioni, appunto, italiane. Quindi, ci torniamo su questo. Di prestito si tratta e soprattutto di una forma di copertura che deve essere assicurata, perché se il lavoratore percettore che ha intenzione di aderire, esatto, a questa opportunità viene a mancare prima del previsto, ci deve essere qualcuno che restituisce questo prestito di cui si è avvalso. Per cui queste sono ancora un po' le gambe mancanti a tutta l'operazione, che comunque a quanto pare ormai è quasi definitivamente sul nastro di partenza. Allora io vorrei fare un po' d'ordine, Deborah, perché sì, a questo punto tu ti sei fatta prendere dall'attualità, dalla legge di bilancio, ti ha ingolosito, lo so, anche il decreto L'IVA. Fiscale 148, ah. Però noi oggi dobbiamo parlare non solo di IVA ma anche di rottamazione delle cartelle. Bravo. Perché proprio nel decreto fiscale 148 c'è la nuova modalità, la, diciamo, riapertura, anche se è un termine un po' generico, per rottamare le cartelle esattoriali. Quindi avete pendenze con il fisco, con Equitalia o Italia, Agenzia Entrate Riscossione, come si chiama ora, allora sappiate che cambiano le regole, sono già cambiate. Da lunedì sono in vigore le nuove regole del decreto legge 148. Ma sono più leggere rispetto a prima, perché già molti contribuenti si sono avvalsi di questa opportunità nei mesi passati. Noi abbiamo fatto tante puntate, non solo con Giovanni Parente, ma anche con l'altra ospite che fra un po' vi presenteremo. C'è un fisco un po' più dal volto umano, come lo aveva ribattezzato la Rossella Orlandi appunto qualche mese fa, che prima era ai vertici di Agenzia delle Entrate, oppure la io procedura. Mi sarei a dire che la procedura sostanzialmente rimane intatta, hanno però rimediato con il decreto legge, hanno rimediato ad alcune rigidità che nella prima edizione della rottamazione delle cartelle avevano condizionato l'adesione di alcuni contribuenti. Questo sì, lo spiegheremo nel dettaglio. Avete cartelle esattoriali? Avete curiosità sull'IVA? Avete dubbi, perplessità sull'APE? volete sapere se questo è veramente il decreto sull'APE? Allora, esatto. Telefonateci 800 24 0024 per intervenire in diretta, oppure 349 238 6666 per mandarci SMS o WhatsApp. Se volete però scriveteci 2didenari@radio24.it, il 2 è scritto a lettere, D-U-E di denari. Raffinatissimi financo a scegliere Elvis Costello, questo è veramente un colpo da maestri. Si sono parzialmente riscattati da Iva Zanicchi, diciamo. Vabbè, la ma verità. Grande Iva ha sempre un suo perché. Io No, ma io contestavo il fatto di usare una cantante che si chiama Iva per parlare di Iva, solo quello. Lo chiedo scusa anche a Giovanni Parente, che con molta serietà si occupa, esatto, invece di questi temi e dell'Iva. Noi abbiamo il massimo rispetto dell'Iva, Giovanni e io. Esatto, perché ci guarda sempre con un po' di così, in maniera un po' po' arcigna, paid back, quindi pagare tutto quello che c'è di arretrato sostanzialmente, un po' ecco perché abbiamo scelto questa canzone di Elvis Costello. Ma salutiamo anche Rosanna Cerno, commercialista esperta di tematiche tributarie e fiscali per il Sole 24 Ore, anche lei sul campo ha preso la laurea honoris causa sulla rottamazione, anzi sulla definizione agevolata, perché ogni cosa va chiamata con i termini giusti. Dottoressa Cerno, buongiorno. Sì. Buongiorno a voi. Oh, sono stata brava, Mauro, te l'aspettavi che io mi ricordassi che si chiama definizione agevolata. Ma vedo che, forse per compiacermi, ma adotti spesso questi termini puntuali, corretti. Vedrai che tra poco parlerai come una circolare dell'Agenzia delle Entrate. Che Dio me ne scappi. Allora, da dove cominciamo? Io comincerei da Giovanni e riprendendo la domanda che mi hai posto prima. Che cosa cambia? È più conveniente? È meno conveniente? Che cosa c'è scritto, insomma, in questo decreto fiscale che riapre i termini, li sposta, ce ne dà di nuovi e dà anche dei contenuti diversi? Giovanni, riassumici il tutto in pochissimi minuti. In realtà va detto che è una riapertura a tre vie, perché sono tre diversi percorsi che riguardano la riapertura della rottamazione. Il primo è quello che interessa quanti hanno aderito alla prima rottamazione ma non hanno pagato le rate che sono scadute a luglio e il 2 ottobre essenzialmente. Quindi potranno rientrare nella prima rottamazione a cui avevano aderito versando quanto avevano saltato o magari non avevano versato in maniera incompleta, hanno commesso appunto degli errori di versamento entro il prossimo 30 novembre, e quindi questi sono sostanzialmente quelli che già avevano aderito alla prima rottamazione. Il secondo profilo riguarda invece quanti avevano presentato domanda di adesione alla prima rottamazione, però si erano visti respingere la domanda perché avevano dei piani di rateizzazione dei pagamenti con Equitalia che non erano riusciti a saldare entro la fine dello scorso anno e quindi non erano nelle condizioni per poter entrare nella prima rottamazione. Quindi adesso avranno una seconda chance, e potranno presentare stavolta un'istanza prima di tutto, quindi bisognerà fare la domanda entro il 2 gennaio, perché il 31 dicembre è praticamente un giorno festivo, il 1 gennaio è festivo, quindi il primo giorno feriale utile per poter presentare la domanda sarà il 2 gennaio 2018. A quel punto poi l'Agenzia Entrata di Riscossione comunicherà il conto e loro dovranno versare sia le rate del vecchio piano di rateizzazione del debito che avevano in corso con l'agente della riscossione, sia poi le rate della rottamazione a cui aderiscono. Il terzo profilo invece riguarda proprio la riapertura vera e propria, cioè la possibilità di aderire ex novo alla definizione agevolata, come ha chiamata giustamente Deborah, per tutti quanti i carichi, ci sarebbero così i crediti che gli enti creditori, Agenzie Entrate, IMSS e altri enti affidano all'agente della riscossione per poterli appunto recuperare, hanno affidato all'agente della riscossione per poterli recuperare dal 1 gennaio al 30 settembre di quest'anno 2017. Quindi, insomma, questo significa, attenzione. Giovanni, esatto, che i contribuenti interessati non lo sanno ancora ma devono attivarsi di loro spontanea iniziativa, no? Per andare a verificare queste posizioni. Esatto, perché non è detto che la cartella, come la chiamiamo noi, come si è, quella materiale sia effettivamente arrivata al contribuente. Tanto è vero che il decreto fiscale prevede anche l'obbligo per l'agente della riscossione di informare i contribuenti per cui che non sono stati ancora raggiunti una cartella che quel loro carico può essere ammesso alla rottamazione. Dovrà farlo l'agente della riscossione questa comunicazione entro il 31 marzo dell'anno prossimo. Quindi questo terzo profilo può al momento preoccuparsi un po' meno della propria situazione, oppure in realtà è sempre bene non abbassare la guardia rispetto ad un fisco che ti fa delle richieste di carichi pendenti. È chiaro, Deborah, che se si ha la liquidità disponibile, ripeto, le regole non sono cambiate rispetto alla precedente rottamazione, quindi si fa la domanda, se si parla di un debito fiscale, tanto per intenderci, c'è la possibilità di scontare sanzioni e interessi di mora, quindi si ha un carico ridotto da pagare, però attenzione, si può pagare sempre in un numero massimo di 5 rate, al momento non c'è nessuna modifica su questo fronte, quindi o si ha la liquidità per far fronte a questa operazione, oppure, oppure insomma è preferibile trovare strade alternative come una rateizzazione. È chiaro però che cioè la rottamazione consente a chi ha la liquidità sufficiente di chiudere una volta per tutta la partita con un costo inferiore. Devo dire che in questo terzo profilo, l'ultimo che abbiamo elencato, c'è una novità, come diceva giustamente Mauro, magari di apertura nei confronti del contribuente, per cui anche chi ha dei piani di rateizzazione in corso e non avesse versato delle rate può comunque entrare nella nuova rottamazione, la rottamazione che riapre su gennaio-settembre 2017. Ecco Giovanni, quindi abbiamo tre chiamate in qualche modo per questa nuova rottamazione delle cartelle: chi aveva definito poi però non ha pagato, quindi era stato ammesso, chi aveva chiesto ma era stato rifiutato perché non aveva rispettato le rate, e poi c'è la nuova apertura, la nuova ondata, prevedendo già la carica delle domande per quanto riguarda le sanzioni invece degli enti locali, cioè le multe stradali ad esempio, che sono sempre un grande tema che si collega. Lì bisognerà aspettare, come è stato per l'operazione fino a prima del decreto fiscale, le decisioni dei singoli enti impositori, cioè i comuni. Certo, lì c'è la questione che secondo me dovrebbe la delibera adottata, chi ha già deciso di far aderire alla rottamazione potrebbe fare semplicemente un prolungamento da questo punto di vista. È chiaro che non mi sembra, avendo scorso il decreto 148, ma ovviamente sono pronto a un chiarimento in questo senso, che ci sia la possibilità di deliberare ex novo. Però voglio fare una precisazione. Ci muoviamo in un quadro di regole che è il testo del decreto legge entrato in Parlamento, quindi volevo anche rassicurare un attimo gli ascoltatori, cioè dicendo non è detto che quello che stiamo dicendo oggi poi sia valido fra un mese e mezzo, due. Quindi insomma nel corso della conversione parlamentare evidentemente qualche modifica potrebbe essere fatta, anche per meramente, scusatemi, per ragioni di gettito, perché la rottamazione di cui stiamo parlando adesso si collega proprio a doppio filo con la questione della sterilizzazione delle clausole IVA, perché dovete pensare che da questa riapertura della rottamazione in particolare dall'ultima finestra, cioè la finestra del 1 gennaio 30 settembre, da cui sono attesi 484 milioni, e dal recupero di quelli che non erano stati ammessi alla vecchia rottamazione, da cui sono attesi 552 milioni, arriveranno poco più di un miliardo che servirà proprio a sterilizzare parte dell'aumento IVA che era previsto per il 2018. Quindi i due temi sono strettamente interconnessi. Sì. Esatto. Certo. C'è tra l'altro un ascoltatore, Giovanni Vittorio da Roma, che dice: ma non riesco a capire, ma perché dobbiamo aumentare l'IVA? Dobbiamo aumentare l'IVA perché 7 anni fa, se conto bene, abbiamo detto che se non avessimo avuto certi incassi, allora avrebbe funzionato questa clausola di salvaguardia, cioè per avere comunque il gettito a disposizione, le spese dello Stato, ebbene avremmo aumentato l'IVA. Per scongiurare questo aumento che continua a pesare su di noi, ad allungare la sua ombra su di noi, ma che è temuto perché potrebbe anche avere degli effetti depressivi sui consumi e così via, ebbene per scongiurare questo aumento ogni anno noi troviamo del denaro, più o meno 15 miliardi, dobbiamo mettere lì una posta, una fiche da 15 miliardi che ci consenta di rinviare, ed è quello che faremo anche il 2017 sul 2018, di rinviare l'aumento dell'IVA. Allora, coinvolgerei la dottoressa Cerno sul tema della definizione agevolata, quindi della nuova rottamazione con l'Agenzia delle Entrate, appunto prevista, fissata dall'articolo 1 del provvedimento 148, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lunedì scorso, che riguarda, lo ribadiamo, i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1 gennaio al 30 settembre di quest'anno. Allora, abbiamo citato prima le multe, dottoressa Cerno, ma parliamo anche di altre tipologie di carichi fiscali pendenti che potrebbero essere oggetto di arretrato da parte appunto di contribuenti che però vogliono pagare, vogliono regolarizzare la loro posizione fiscale e vogliono approfittare di questa nuova opportunità. Di quali tipi di arretrato possiamo parlare? Sì, diciamo che la gamma dei debiti rottamabili è molto ampia, come per la precedente definizione agevolata dei carichi. Un caso fra tutti, ricordo ad esempio, che sono comunque rottamabili anche diciamo quei carichi relativi ai contributi previdenziali, quindi debiti previdenziali nei confronti di casse di previdenza e assistenza professionali. Qui c'è stata una polemica da parte delle casse, ma sembra anche in questo caso salvo diciamo cambiamenti dell'ultima ora che il legislatore comunque conferma anche per le casse, quindi per i debiti previdenziali, la possibilità di rottamare. Un'ultima precisazione poi volevo fare, in verità a mio avviso così, certo è fondamentale avere la possibilità di rottamare, questo è, deve essere vista questa rottamazione, anche questa come un'opportunità per non pagare sanzioni. Comunque per diciamo io direi a tutti i radioascoltatori, comunque consiglierei di chiedere un estratto di ruolo, cioè per vedere esattamente la posizione ad oggi, la loro posizione ad oggi presso l'agente della riscossione. Quindi non aspettare esatto che arrivi questa famosa lettera con l'importo dei carichi. No, anche perché che dovrebbe arrivare entro marzo. I dati a settembre 2017 facendo un estratto di ruolo già oggi già si vedono quelli che sono diciamo i carichi affidati fino a settembre 2017 da tutti gli enti diciamo sia previdenziali ma enti impositori in genere, che affidano appunto all'agente della riscossione la possibilità appunto di riscuotere. Poi ci sono molti ascoltatori, Mauro, che chiedono le scadenze delle nuove rate, quali saranno, adesso lo spiegheremo. Vedo che però incede il tempo. Il tempo è tiranno? No. Esatto. In questo caso il tempo è galantuomo, cara Deborah, perché anche mentre vi daremo l'aggiornamento sui mercati, anche durante qualche spot pubblicitario, sappiate che potete sempre scriverci 349-238-6666 intanto, o telefonarci 800-24-00-24 per i vostri interventi in diretta. E adesso, cara Deborah, come d'abitudine, intorno alla mezz'ora del nostro programma, le borse. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Due di Denari. Allora, il prezzo da pagare, e adesso ce lo facciamo. The price you pay, dice the boss. Senti, no, per non fare figli e figliastri, salutiamolo allora il nostro regista di stamattina, perché sennò ce lo dimentichiamo alla fine, lo sai che siamo vero, due testoni. Il tempo fugge, l'uomo non se ne avvede, invece ecco. Paolo Corleoni rende possibile tutto questo. Esatto, no, facciamolo allora. Da oggi abbiamo questa nuova abitudine di ringraziare a metà programma chi ci assiste, perché sennò alla fine del programma noi ce lo scordiamo in tutta la furia e la fretta che abbiamo di chiudere. E adesso andiamo a sentire qualche domanda dagli ascoltatori. Comincerei da Gianna, che da Roma ci fa una domanda di tipo molto generale e quindi può servire a inquadrare Ottimo, l'argomento. Gianna, buongiorno. Per questo, Gianna. Pronto, buongiorno, mi sente? Sì. La sentiamo. Senta, una domanda molto puerile. Voi parlate di cartelle. A me è venuto invece un avviso bonario dell'Agenzia dell'Entrata. Sì. È equivalente alla cartella? Io sto sanando questa situazione relativa della dichiarazione dei redditi 2014 per i redditi del 2013. Ho pagato tramite il CAF, mi ha rifatto tutta il papier, eccetera, eccetera. Sto sanando anche quella in corso. Ecco, sì. Che differenza c'è tra quelli che loro chiamano avvisi bonari e quell'altro? Sì. Cosa devo fare? Sono io che mi devo portare? Io sono andata all'entrata, ho fatto verificare le cose, ho rifatto fare i conti dal CAF. Giustamente hanno trovato degli errori, effettivamente nessuno sta dicendo, ma è un qualcosa che rientra in questo che dite voi? Certo. O no? Certo. È chiarissima la sua domanda, l'avviso bonario. Era datato 8 settembre 2017, è arrivata con una lettera bianca, senza niente, che poteva essere completamente persa, il 5 di ottobre. Sì, oltretutto in posta ordinaria. Grazie Gianna, questo fa parte della politica di ricerca di compliance, insomma di adeguamento spontaneo, per dir così, quindi non è una cartella esattoriale vera e propria, non è un'iscrizione a ruolo come dicono in gergo i fiscalisti, è un'operazione completamente diversa. Le entrate, l'agenzia delle entrate, il fisco, insomma, si è accorto che qualcosa non andava bene nella nostra dichiarazione e dice: guarda, ci risulta che non sia tutto corretto, vuoi rimediare subito? Non c'è quindi ancora l'iscrizione a ruolo, quindi vai a verificarla di conseguenza. Ma chiedo conferma a Rosanna Ceno, Giovanni Parente, siamo al di fuori dell'operazione della rottamazione delle cartelle, qui è una regolazione agevolazione, come dire, amichevole, se si può dire amichevole, nei confronti del fisco, che avviene tra fisco e contribuente. Chiedo conferma a Rosanna se ho detto. Mauro, sì, hai ragione. Allora, giusto per spiegare alla radioascoltatrice in maniera ancora più semplice, si tratta sostanzialmente di comunicazioni che l'Agenzia delle Entrate fa sulla base di quanto noi dichiariamo in dichiarazione dei redditi. E quindi laddove ci sono delle incongruenze, delle differenze tra quanto abbiamo versato rispetto a quanto abbiamo dichiarato, con questa comunicazione che correttamente viene notificata per posta ordinaria, perché è previsto così proprio dalla legge, quindi se decidiamo poi di accettare questo riscontro fatto dall'Agenzia delle Entrate, dentro 30 giorni noi decidiamo anche di pagare in un'unica soluzione o una sola rata, abbiamo già definito questo avviso, quindi nel nostro caso non rientriamo affatto nella rottamazione, perché come abbiamo già detto all'inizio si tratta di tutte invece quelle somme che non sono state definite in questa fase, cioè inizialmente non sono state proprio accettate, o se sono state comunque accettate poi non sono state pagate, e quindi poi l'Agenzia delle Entrate si è rivolta all'agenzia riscossione, la ex Equitalia per intenderci, per far riscuotere poi queste somme dalla stessa in maniera più coercitiva, esatto, con le misure che ha a disposizione, i poteri che ha a disposizione la riscossione. Certo. Per dirla brutalmente, se la signora Gianna avesse rifiutato questa lettera, questo invito dell'Agenzia delle Entrate, l'agenzia dopo il suo rifiuto avrebbe trasferito alla riscossione, quindi da lì la cartella, da lì allora la sanatoria. Se uno, certo, decide di sanare perché gli dicono guarda, c'è qualcosa che non va, vuoi sanarla così per le vie brevi, non entra nella rottamazione. Allora, invece ci sono altri ascoltatori che hanno aderito alla precedente definizione agevolata, alla precedente rottamazione, ma esattamente richiamando quei profili identificati prima da Giovanni, appunto c'è anche chi non è riuscito poi a rispettare lo scadenzamento appunto dei pagamenti, quindi le rate fissate nella fase precedente, chiede se può aderire adesso alla nuova operazione, dicevamo di sì, oppure addirittura come Giovanni Daleco, a cui adesso faccio fare la domanda, se avendone saltata una, adesso avendo magari trovato della liquidità, si può immediatamente recuperare o se bisogna riazzerare tutto completamente. Giovanni, vengo da lei, Aleco, buongiorno. Poi magari ci mettiamo insieme la domanda di Salvatore. Sì, sì, pronto? Sì, ci prego. Siamo. Sì, buongiorno. Allora, cioè, è molto semplice la situazione. Cioè, io ho aderito alla rottamazione, cosa che lo Stato mi ha sempre dato una mano in tutto a morire, no? Perché uno dice dividiamo in cinque rate, ma te ne affibbiamo le prime quattro, te ne affibbiamo il doppio e poi l'ultimo ti diamo il contentino e ti facciamo pagare un terzo, no? Allora sì, io ho pagato la prima rata, la seconda che sarebbe a settembre, purtroppo la mia azienda a agosto non lavora, non ha introiti, certo, ho preferito, ho fatto due conti, pagare i miei fornitori, i miei dipendenti e il commercialista. E ho sì, perché è tutto concentrato in estate, anche la prossima operazione. No, appunto, perché uno dice, povero disgraziato, lavoro 24 mesi all'anno, non più 12, e il mese di riposare, quattro soldi che ha chi ha la tredicesima li la portiamo via, così almeno il commercio va a rotoli come sta andando, no? Va bene, ecco, però ci dica la sua situazione. Esatto, lei, Giovanni, ha saltato quindi la rata di ottobre, sì, del 2 ottobre. E sì, adesso il mio commercialista mi dice: guarda, la puoi recuperare, ma ne devi pagare 2 novembre. Mm. E gli ho detto: certo, guarda, gli dica all'ufficio delle entrate che l'unica cosa che mi può portare via adesso, posso calare i pantaloni e portare via quello. No? Aspetti, va lì, bene. Giovanni, ci mettiamo anche Salvatore da Catania, sì, che così ha una facciamo situazione analoga. Esatto, una considerazione cumulativa. Salvatore? Sì, pronto? Ci dica. Buongiorno, allora sì, sostanzialmente la domanda è come quella di Giovanni, cioè avendo saltato la seconda rata perché non avevo disponibilità, quindi a novembre si potrebbe eventualmente con questa deroga poter rientrare e pagare, è previsto anche la terza rata a novembre, quindi dovremmo pagare tutte e due, oppure slittava, perché nella finanziaria nella normativa non è specificato questo, cioè si intende solo la deroga per queste rate non pagate. A meno che, non so, appunto c'è qualche altra soluzione, si potrebbe slittare e pagare quella di novembre alla quarta rata e così via. Questo grazie, non è Salvatore. Chiaro. Grazie. Allora, sentiamo un po' chi assegniamo. Rosanna Cerno. Allora, secondo me il tutto nasce da una questione che dobbiamo tenere presente. La rottamazione dei ruoli, a differenza della definizione delle liti pendenti, che è stata un'altra sorta di sanatoria che c'è stata per i contenziosi, se non ricordiamo male, si perfezionava con l'effettivo pagamento e integrale pagamento di tutto quanto dovuto. Allora, perché sto dicendo questo? Perché secondo me, nel caso in cui, come i nostri radioascoltatori, ci sia stato sì il pagamento della prima rata della rottamazione, ma poi successivamente per carenze di liquidità, appunto, quindi per ragioni legittime, non c'è stato il pagamento della seconda rata, quindi la rottamazione a mio avviso non si è perfezionata. In sostanza, in base alla legge che era prevista allora, questi debitori sono decaduti dalla rottamazione. Adesso con la nuova rottamazione cosa è previsto? Una riammissione alla nuova rottamazione, quindi secondo me non è opportuno, però fermo restando che qui stiamo parlando ovviamente di ipotesi, perché come diceva Giovanni speriamo che non cambino le cose, ma ad oggi, per come è scritto anche il nuovo testo normativo, secondo me, fermo restando che è opportuno anche andare a parlare con l'agente della riscossione, quindi con l'agenzia di entrata e riscossione, ma comunque secondo me non conviene più pagare le rate successive relative alla rottamazione, diciamo, originaria, ma sì, fare una nuova domanda, quando sarà possibile farla, quando ci saranno i moduli per presentare la nuova istanza di rottamazione, e allora lì sarà l'agenzia entrate e riscossione che, diciamo, vi farà un piano di dilazione e quindi riammetterà questi debitori alla nuova rottamazione. Ma Rosanna, bisogna metterlo nero su bianco da qualche parte, questa volontà, in modo tale da evitare che il fisco ti non lo so, richieda di rimetterti in regola immediatamente perché sei in arretrato con questo, quindi che ne so, farsi aiutare. Intanto l'unica cosa da fare adesso è quando come un'interruzione dei termini di prescrizione, no, come si sì. Nel frattempo si può chiedere eventualmente, però lascia il tempo che trova, un'istanza di sospensione amministrativa. Io lo so che parlo in gergo tecnico, però vuol dire sostanzialmente un'istanza presentata su un modulo, diciamo, già prestampato da parte dell'agente della riscossione, in cui si chiede appunto la sospensione di qualsiasi misura cautelare o esecutiva proprio per questa volontà comunque di essere riammessi. Ovviamente appena escono i moduli per la nuova istanza, diciamo, per presentare l'istanza di rottamazione, è bene affrettarsi a farla proprio per bloccare quelle azioni che potrebbero essere intraprese, perché ad oggi, ecco, questo volevo dire, secondo me i due radioascoltatori sono che decaduti non hanno pagato dalla rottamazione. Esatto, sono decaduti dalla rottamazione. Non stanno più rottamando. Certo. No. Invece, allora, visto che parliamo di rottami, ma non per questo, ci spostiamo su quello che rottame non è, ovvero la viabilità. Signore e signori, il traffico. Due di denari. Stamattina stiamo privilegiando tutti gli ascoltatori con le loro domande in diretta all'800240024, ma siccome siete anche in tanti a scriverci su WhatsApp, oggi stiamo trascurando un po' più il mondo dei whatsappisti, però volevo salutare il nostro imprenditore nel settore aerospaziale, che a me affascina molto, Mauro, perché ha un'azienda con due cartelle esattoriali più un debito residuo non ancora notificato con cartelle. In questo caso, cosa e come potrei rottamare? Salutiamo il nostro amico Antonio, che fa un lavoro che è molto interessante. Equitalia nello spazio, l'ha raggiunto anche lì. Sono incredibili. Giovanni Parente, che peraltro prima ti stavi sbracciando, non ti abbiamo dato spazio mentre rispondeva la nostra Rosanna Cerno. Volevi aggiungere qualcosa rispetto ai casi precedenti? No, cioè volevo, era esattamente quello che poi avete commentato voi da studio, cioè nel senso che è chiaro, ci sono situazioni quando ci si trova con le due rate o una delle due rate non pagate e il piano di rateizzazione e il piano di pagamenti per la rottamazione era stato pattuito, diciamo, su 5 rate, è chiaro che a novembre ci si trova a dover pagare le rate scadute che sono state saltate per essere riammessi e la terza che era già in scadenza, quindi è sicuramente un impegno finanziario, da un punto di vista finanziario notevole, perché immagino che per essere arrivati a chiedere la rottamazione vuol dire che comunque non c'era una disponibilità liquida per poter certo. saldare i conti. Mentre credo che per la domanda che cioè, hai appena letto tu, Deborah, sì. Esatto, cioè, valga quello che ha detto Rosana Cerno, cioè vale a dire informarsi prima dalla gente della riscossione, agenzia delle entrate riscossioni, adesso si chiama così, ricordiamo, non si chiama più Equitalia, se effettivamente c'è un risulta da un estratto di ruolo, cioè un'iscrizione al ruolo a suo carico, e vedere appunto quando è avvenuta l'iscrizione al ruolo. Ricordiamolo, allo stato attuale non è che è possibile fare domanda di rottamazione per cartelle, per carichi affidati dal 2000 al 2016, cioè la norma da questo punto di vista non riapre per tutto il passato, ma ha un'apertura limitata al periodo appunto 1 gennaio 30 settembre 2017. Per gli altri casi per cui riapre per il passato, li abbiamo ricordati prima, cioè chi ha aderito alla rottamazione e ha saltato le rate in scadenza a luglio e il 2 ottobre, e invece chi aveva fatto domanda ma non era in regola con i pagamenti dilazionati che aveva già pattuito con Equitalia sostanzialmente. Quindi questo è uno degli aspetti secondo me critici, cioè far capire a chi non aveva fatto la rottamazione prima e aveva dei carichi vecchi che al momento, almeno per come sono scritte le cose, non potrebbe rientrare. È chiaro che la partita poi potrebbe, come anticipavamo prima, cambiare in corso di conversione del decreto. Sì, la cosa non è semplicissima, Giovanni, fai bene a insistere su questo punto, perché la nuova rottamazione, per così dire, definizione agevolata. Mamma mia, Deborah, stai diventando veramente come una risoluzione delle agenzie delle entrate. Allora, la nuova, a furia di frequentarvi mi sono imbruttita. La nuova definizione agevolata, per ripescare, per dir così, necessita che il contribuente abbia già avuto l'adesione alla vecchia definizione agevolata, alla vecchia rottamazione. Siccome alcuni ci scrivono, ma allora io ho delle cartelle precedenti, ma immagino, ci scrivono diversi ascoltatori, non hanno aderito alla prima chiamata, alla prima rottamazione, ebbene questa riguarda nella sua nuova formulazione solo le cartelle del 2017, quindi se sono annualità precedenti proseguiranno. Questo però, Giovanni ce lo sta dicendo in tutti i modi, riguarda una normativa che è scritta per decreto legge, e allora significa che durante il dibattito parlamentare, per diventare definitivamente legge dello Stato, potrebbero cambiare delle certo. cose. Magari fare 6 rate invece di 5, non concentrarle tutte nel periodo estivo autunnale dell'anno prossimo, perché la nuova modalità di pagamento è replica a quella attuale, no, dottoressa Cerno? Magari lo ricordiamo, 5 rate, ricordo un ascoltatore, con le prime te in cui bisogna versare comunque l'80% di tutto quello che va versato integralmente. Esatto. Sì, la domanda è entro il 15 maggio 2018, se rimangono queste le date. E poi l'importo da versare sarà comunicato dall'Agenzia Entrate e Riscossione entro il 30 giugno 2018, e il numero massimo di rate anche questa volta dovrebbe essere pari a 5, di uguale importo in verità in scadenza nei mesi da luglio, poi abbiamo luglio, quindi fine luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e l'ultima a febbraio 2019. Poi, se me lo consenti, Deborah, sì. Volevo precisare solo una cosa, ma così a livello molto pratico, perché obiettivamente forse questo estratto di ruolo ancora oggi spaventa un po'. Esatto. Diciamo che a quale porta bisogna andare a bussare esattamente, esatto. per averlo velocemente? Per come viene scritta adesso, per come è stata scritta adesso la norma, io posso soltanto dire che laddove un contribuente abbia ricevuto, quindi abbia avuto la notifica di un avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate a gennaio, sostanzialmente a gennaio 2017 o comunque da gennaio in poi, diciamo che se non ha fatto niente in merito a questo avviso di accertamento, quindi di fatto non ha pagato o ha cominciato a pagare qualcosa ma poi non ha più pagato, diciamo che devono essere decorsi 90 giorni dalla notifica per avere l'affidamento all'agente della riscossione. Non so se sono stata chiara. Sì. Quindi, da quando ricevo un avviso di accertamento, se rimango inerte, cioè non faccio niente, non lo impugno, o anche in verità se lo impugno, una piccola somma viene comunque affidata all'agente della riscossione per legge dopo 90 giorni. Al 91esimo giorno di fatto viene affidata queste somme dovute. Per quanto riguarda invece gli avvisi bonari, quelli di cui parlava la radioascoltatrice prima, laddove io non dovessi pagare nulla anche prima, in verità, cioè l'iscrizione a ruolo, perché ormai abbiamo visto che l'Agenzia delle Entrate è diventata molto molto veloce nella discussione e nel richiedere anche queste somme. Quindi sostanzialmente diciamo che possono passare circa 60 giorni da un avviso bonario non definito, e quindi a quel punto le somme passano all'agente della riscossione. Mauro, allora noi stiamo andando verso la chiusura, possiamo però scegliere magari al volo di prendere un'ultima telefonata, cosa dici? Abbiamo ancora qualche raccomandazione finale da dare su tutta l'operazione? Magari... Allora, vorrei far intervenire rapidissimamente Andrea da Verona, perché dice non sono riuscito a rottamare. Buongiorno Andrea, qual era la sua situazione? Buongiorno, anche se forse in parte avete già risposto. Sì, io il giro scorso, diciamo, non sono riuscito a rottamarle perché ero disoccupato, quindi mi sembrava neanche il caso di andare a chiedere. Sì. Ecco, questa volta non posso che rientrare, perché la mia è una vecchia INPS praticamente, esatto, già in Equitalia del 2011 e metà 2012, perché poi ho chiuso. Sì. Quindi, certo, questa è la sua domanda. Grazie Andrea, dobbiamo chiudere. A chi lasciamo rispondere? A Giovanni, ma credo che confermi esattamente quello che ci ha ricordato prima. Giovanni, velocissimo. Assolutamente sì, quindi non può rientrare. Volevo solo ricordare invece che da domani cominciano le guide al decreto fiscale sul Sole 24 Ore, e la prima puntata è dedicata proprio alla rottamazione, alla riapertura della rottamazione. Ah, perché è una serie proprio, esatto. Ma proprio vi siete sbizzarriti, è una sceneggiatura. Il decreto fiscale numero 148, cara Deborah, ci accompagnerà per settimane. Bene, assolutamente. Ma anche da domani sul Sole 24 Ore. Senti, a proposito, visto che con la legge di bilancio hanno questa tentazione di fare un piccolo prelievo del 2 per 1000 sulle polizze vita, io domani questo tema qua te lo appioppo a Investire Informati. Vuoi... Sono entusiasta. Sei perché contento? Questa giuntura tra investimenti e fisco, come sai, mi dà gioia. Sempre più salda. A domani, buona giornata a tutti e grazie a Rosanna Cerno. A presto. Mamma mia, Deborah, stai diventando veramente un come pignola. Una risoluzione delle agenzie delle entrate.